Io sono molto severa, anzi non penso affatto che si tratti di una buffonata come molti sono tentati a dire in questo momento. Io penso che sia molto grave e che si iscriva a pieno titolo in quest'opera di delegittimazione del Parlamento e di tutto ciò che la nostra Costituzione prevede come organizzazione dello Stato e delle istituzioni, perché non si può affidare a un gruppo comunque di persone estranee e la decisione o la scelta di quello che poi il loro rappresentante, comunque siamo ancora in una democrazia rappresentativa, deve poi fare, esprimere in Parlamento. Quindi non è una buffonata, è un altro passo verso questa deriva pericolosissima verso cui ci sta portando la politica che adesso è in maggioranza, la politica adesso ha la maggioranza e quindi credo che ogni grido di allarme sia benvenuto per bloccare questa deriva. C'è qualcuno che l'ha definita una mossa pilatesca da parte dei parlamentari, appunto, del Movimento 5 Stelle. Lei ci sta dicendo che è uno scivolamento verso quella che viene considerata democrazia plebiscitaria, in questo caso, visto che si parla di giustizia, una giustizia plebiscitaria? Sì, una giustizia e una politica, perché è una cosa molto complessa l'autorizzazione a procedere, tutto quello che riguarda l'attività politica dei rappresentanti del popolo. Sono una cosa molto complicata a cui i padri costituenti hanno prestato una grandissima cautela e attenzione nella stesura della Costituzione. Quindi qui quello che mi pare che stia accadendo nel disinteresse, no, non proprio disinteresse, alcuni sono preoccupati ma non hanno ancora trovato, diciamo, un modo di convogliare queste preoccupazioni verso qualche cosa di propositivo, è proprio questo scivolamento dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta, a una rappresentanza diretta del popolo. Il popolo rappresenta se stesso e questo nella storia di tutte le nazioni, di tutti i tempi, è un rischio molto serio, perché stuzzicare la pancia del popolo, mi ci metto anch'io in questo senso, cioè non è un discorso elitario, non è un discorso elitario, è un discorso di rappresentanza politica e non rappresentanza politica. Quindi questo è molto rischioso e invito a leggere un bellissimo libro che sta uscendo in questi giorni, di Madeleine Albright, che era la segretaria insomma sottosegretaria all'epoca di Clinton, ecco, che racconta proprio sotto questo titolo Fascismo quello che può succedere in una fase in cui i rappresentanti eletti dal popolo siano messi in secondo ordine rispetto a un popolo che decide da solo, che decide di decidere da solo. Quindi, insomma, ci sono preoccupazioni anche a livello internazionale di quello che sta succedendo in Italia, siamo degli osservati privilegiati da altre democrazie, diciamo.